I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Ancora una volta ci ha pensato Super Mario Draghi a tranquillizzare temporaneamente almeno i mercati finanziari. Non è stata tanto la decisione di lasciare i tassi invariati, era infatti ampiamente scontata, quanto i commenti che l'hanno accompagnata ad avere generato ieri l'euforia delle borse. Draghi ha infatti fatto capire che non solo il quantitative easing, quindi l'acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea e delle banche centrali nazionali continuerà, ma ha anche annunciato a sorpresa che continuerà, se necessario, anche oltre settembre del 2016. Più scontata, perché in parte già annunciata, ma non meno significativa, anche la decisione di aumentare la soglia di titoli di Stato che la Banca Centrale Europea può comprare durante un'emissione di un paese dell'area euro, portando dal 25 al 33%. In sostanza Mario Draghi ha fatto capire che la ripresa in Europa c'è, ma è più lenta del previsto, che ancora permangono numerosi dubbi sull'inflazione dell'area euro troppo bassa a segnalare consumi e una dinamica economica non soddisfacente, e ha ribadito che proprio sul tema dell'inflazione la Banca Centrale Europea è pronta a usare tutti gli strumenti a sua disposizione. Un Mario Draghi che ha voluto anche fare un riferimento forte a quanto sta avvenendo alle frontiere dell'Europa, dicendo che ogni europeo dovrebbe inorridire per quanto sta accadendo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Mario Draghi lo ha detto chiaramente, l'eurozona rallenta e la crescita sta frenando. E soprattutto per effetto della crisi cinese e degli altri paesi emergenti, Russia e Brasile ad esempio, è un fatto che indebolisce le esportazioni dell'area euro. Anche il Fondo Monetario Internazionale sottolinea il forte rallentamento dei paesi emergenti e della crescita globale, nonostante i miglioramenti nell'euroarea compiuti da Germania, Francia, Italia e soprattutto dalla Spagna. In un contesto di questo genere, assume ancora maggiore realismo la previsione fatta oggi dal Centro Studi Confindustria sul rischio di una stagnazione secolare, così l'hanno chiamata. Si parte dall'analisi dei numeri del PIL globale. Negli ultimi 4 anni le previsioni di aumento sono state costantemente riviste al ribasso, da un più 4,8% medio annuo atteso nel 2011 per i 5 anni successivi, si è scesi a un 3,9 previsto nel 2015 dallo stesso Fondo Monetario Internazionale per il periodo 2016-2020. Per quest'anno, nell'arco di 12 mesi, le stime sono state abbassate ancora dal 4 al 3,3%. I motivi del rallentamento sono dovuti soprattutto al calo generalizzato degli investimenti e della domanda e alle dinamiche demografiche in forte riduzione. Il mondo dunque rallenta, i dati di crescita a 0, per l'Italia, per quanto superiori alle attese, danno l'idea di un paese che è come un turacciolo in mezzo ai marosi. L'Italia deve continuare la sua politica di riforme, di semplificazione, nonché di forte alleggerimento fiscale, senza eccessi di propaganda però e con scelte efficaci e ben mirate di politica economica, senza dimenticare ad esempio che serve una dose massiccia di investimenti anche pubblici e un alleggerimento del carico fiscale sul costo del lavoro, avendo a mente che il taglio dei contributi, che tanto sta spingendo l'occupazione, è temporaneo e finirà nel 2016, dopo che accadrà. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.